Salva Danaio. Le 12:17 minuti, buongiorno, bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Le donne vanno per la maggiore oggi anche nei programmi di Radio 24, non potrebbe essere diversamente visto che stiamo festeggiando un nuovo 8 marzo. Quest'anno l'insegna di nuove regole migliori per conciliare lavoro e famiglia, l'intesa l'avete sentito anche nei nostri GR, è stata raggiunta ieri, l'auspicio è che questo accordo serva davvero a dare nuova linfa, nuove possibilità alle donne di affermarsi nel mondo del lavoro come meritano. E questa puntata di Salva Danaio certo non è dedicata solo alle donne, però è ricca di storie femminili e di sicuro anche alle aspiranti imprenditrici si rivolge perché, come avete sentito nel GR, oggi parliamo di microcredito, e cioè della possibilità per chi ha difficoltà di accesso al sistema bancario tradizionale di ottenere un prestito di piccola entità senza richieste di garanzie reali. Sentiremo le storie di chi è riuscito ad avviare un'attività anche grazie al microcredito e ci faremo spiegare come funziona questa modalità di finanziamento da Andrea Limone, amministratore delegato di Permicro, che è in studio con me, ben trovato. Buongiorno, innanzitutto tanti auguri a tutte le donne. Molte grazie, invito le donne ma anche gli uomini a chiamarci se hanno delle domande su questo argomento. Il numero è gratuito, 800 24 00 24, il numero per gli sms è 348 0198 53. Giusto, no, 349 238 6666, questo è il numero giusto. Nato nei paesi del terzo mondo come sostegno alle popolazioni disagiate, il microcredito nel corso degli ultimi anni si è diffuso capillarmente anche nei paesi sviluppati, complice la crisi finanziaria e la stretta del credito effettuata dalle banche, che ha reso sempre più difficile l'erogazione di nuovi finanziamenti. Ma come funziona il microcredito? Piccoli gruppi di persone con un'idea imprenditoriale richiedono un finanziamento per i loro progetti e lo rimborsano con scadenza annuale e quote su base settimanale basse. In questo modo si evitano tassi di interesse sulla rata finale, si prevengono le tentazioni legate all'usura e si promuovono le capacità individuali di chi vuole emergere nel mondo professionale del lavoro. Il target a cui si rivolge il microcredito è costituito da microimprenditori, ovvero persone che svolgono attività produttive anche molto piccole e limitate, ma che hanno notevoli opportunità di svilupparsi se assistiti con servizi finanziari specifici. Dislocate tanto nelle aree urbane come in quelle rurali dei paesi in via di sviluppo, queste attività sono generalmente di commercio, servizi, produzione agricola e artigianale. In molti casi vengono coinvolti i familiari e pochi altri dipendenti in piccole attività orientate al sostentamento dell'economia familiare. No, poco fa ha dato veramente i numeri, siamo precisi, ripeto il numero verde per le chiamate 800 24 00 24, quello per i messaggi è 349 238 6666, del resto gli ascoltatori fedeli di Radio 24 questi numeri ormai li conoscono a memoria, differentemente da me evidentemente. Allora, Andrea Limone, amministratore delegato di Permicro, chi si rivolge a voi soprattutto? Beh, innanzitutto immigrati che vogliono aprire una piccolissima attività, come si è detto nel servizio, di commercio, una piccola attività di trasporto, eccetera eccetera. Poi ci sono dei giovani che vogliono avviare un'attività perché non hanno l'idea del posto fisso, ma invece vogliono mettersi in proprio e portare avanti un'avventura propria di se stesso, con soddisfazione, con novità, con innovazione. E ancora soggetti che hanno difficoltà perché fuoriusciti dal mercato del lavoro e che si devono inventare qualche cosa di nuovo, quindi una piccolissima attività per avere un reddito per se stessi e per la propria famiglia. Quindi chi si rivolge al microcredito spesso vuole avviare una propria attività, ma non è necessario per ottenere questo credito? No, le possibilità sono due: o avviare o sviluppare una piccola attività, oppure il microcredito serve dei soggetti che hanno delle esigenze proprio urgenti di famiglia, quindi la cauzione per l'affitto, piuttosto che un piccolo finanziamento finanziamento per un corso di professionalizzazione, piuttosto che ancora un piccolissimo finanziamento perché ho esigenza di comprare l'apparecchio odontoiatrico per mio figlio. Quindi salute, casa e formazione. Non certo per comprare la televisione o per andare in vacanza. Non crediti al consumo, assolutamente. Questa è una delle differenze, diciamo. Assolutamente sì, solo crediti in risposta ad esigenze familiari. Non occorrono garanzie. No, la garanzia che noi chiediamo è una garanzia morale, quindi alla garanzia reale, l'ipoteca sulla casa, sul terreno, sulla macchina, eccetera, eccetera, noi sostituiamo quella che è la garanzia morale di una rete di riferimento, una parrocchia, un'associazione, un centro aggregativo, una bocciofila, una società sportiva che dice sì, Andrea Limone è una persona seria, affidabile, siamo disposti a garantire per lui e siamo disposti a seguirlo per tutto il corso del finanziamento, dove seguirlo si intende far di tutto perché lui paghi, stargli appresso, sentirlo, semmai coinvolgere altri associati affinché tutti vadano a comprare nel negozio della persona che ha avviato un'attività. Quindi servono delle referenze, qualcuno che garantisca per te. Assolutamente, invece di portare il mattone, invece di portare qualche cosa in pegno, porto la mia capacità, la mia relazione che ho instaurato sul territorio. Allora, sentiamo subito una testimonianza, poi continueremo a parlare con Andrea Limone. La testimonianza è quella di Noemi, che grazie anche al microcredito ha aperto un negozio di alimentari vicino a Monbercelli, in provincia di Asti. Un anno fa circa, per esattezza ad aprile, si era presentata l'occasione di aprire un negozio in un piccolo comune nel Vercellese. Sono venuta a conoscenza del bando per l'assegnazione di un piccolo locale e quindi ho deciso di aprire un negozio di alimentari. Ho richiesto un finanziamento di 5.000 euro. E io personalmente ero senza occupazione da diversi mesi e quindi diciamo che era un elemento non finanziabile altrimenti, invece presso il microcredito sono riuscita ad ottenere questa piccola somma. La possibilità del microcredito mi è stata segnalata allo sportello per le imprese alla provincia di Vercelli. Comunque l'attività sta andando avanti bene, ovviamente sarà tutto in crescita, il primo anno di rodaggio, insomma, comunque va bene. Ottimo il bilancio sull'esperienza perché mi hanno ascoltata, aiutata e siamo riusciti ad ottenere insomma, questo risultato. Ecco, qualcuno potrebbe sorridere, 5.000 euro per aprire un negozio alimentari sono un po' pochi, però lei ce l'ha fatta comunque. Come li ha utilizzati? Ma sì, per esempio con 450 euro ha comprato tre banchi frigo, piuttosto che con 370 una vetrina frigo e poi delle scaffalature, un banco frigo e per 1.000 euro l'affettatrice e la bilancia. Tutte queste cose insieme, 5.000 euro, le hanno permesso di partire. Poi, come lei stessa dice, si sta man mano ricostruendo un'attività e aggiungendo piccoli pezzettini a questa attività. Certamente la parte importante che noi riteniamo importante, che Noemi ha sottolineato, è che c'è un accompagnamento prima per la definizione del piano d'impresa, del business plan, dei conti della serva, quindi quanti soldi mi servono per partire e se riesco poi a restituire, e poi il monitoraggio, quindi dopo l'erogazione del finanziamento l'aiuto concreto a seguire l'attività, a sviluppare l'attività con il commercialista, con gli enti, con le associazioni di categoria. Quindi voi aiutate anche nel business plan, cioè prima dell'attività? Assolutamente sì, il microcredito è innanzitutto, oltre che un prestito senza richiesta di garanzie, è un prestito dato con un accompagnamento prima e dopo e con questo ascolto e accoglienza della persona che in qualche modo si sente seguita fin dall'inizio in questo percorso. Qual è il tetto massimo? Il tetto massimo è 25.000 euro per il microcredito all'impresa e 10.000 euro per il microcredito alla famiglia, quindi pochi soldi se vogliamo, ma che sono assolutamente sufficienti per partire. Innanzitutto per partire e poi man mano l'attività cresce e si costruisce insieme. Per partire, quindi possono servire anche per acquistare uno strumento di lavoro? Assolutamente sì. Cioè, mi mancano i soldi per il furgone? Assolutamente, per un furgone di seconda mano che mi serve per fare dei piccoli trasporti piuttosto che delle piccole consegne a domicilio, o ancora una macchina da cucine, o ancora magari un PC particolare con un'attrezzatura particolare, un plotter come abbiamo fatto a Pescara, quindi piccoli macchinari che mi danno l'opportunità di partire oggi subito a fare quello che già so fare con competenza, con capacità, che ovviamente devo avere già. Continueremo a parlarne nel corso della puntata fino alle 13, sentiremo anche altre storie, adesso dobbiamo fermarci. Prima della pausa però mi prendo un minuto per ricordare che il 6, il 7 e l'8 aprile si terrà a Milano la nuova edizione del Salone del Risparmio, il più importante evento italiano dedicato al settore del risparmio gestito, organizzato e promosso da Sogestioni. In vista di questo appuntamento Salvadanaio, in collaborazione con il Salone del Risparmio, ha istituito un servizio di segreteria telefonica dove potete lasciare le vostre domande in tema di risparmio gestito. Il numero, se vi interessa potete segnarlo, è 800 28 12 12. Vi invito dunque a contattare la nostra segreteria e a Salvadanaio a partire da lunedì le risposte a tutti i vostri quesiti in diretta insieme ai nostri esperti. Ripeto il numero per le vostre domande sul risparmio gestito, è una segreteria, 800 28 12 12. Adesso invece ricordo, do ancora i numeri, ricordo i numeri per intervenire oggi in diretta. Numero verde 800 24 00 24 se volete intervenire con la vostra voce, per i messaggi SMS 349 238 6666. Pubblicità a meteo e poi torniamo insieme. Rieccoci a parlare di microcredito, cioè della possibilità per chi ha difficoltà ad accedere al sistema bancario tradizionale e ottenere un prestito di piccola entità e senza richieste di garanzie reali. Ne stiamo parlando con Andrea Limone, amministratore delegato di Permicro, ne parliamo con voi, ci state raggiungendo all'800 24 00 24 e via SMS al 349 238 6666. Tra poco sentiremo anche alcune storie, prima un quesito, un intervento, quello di Giuseppina che ci chiama dalla Sicilia, da Palermo. Buongiorno. Buongiorno, sono Giusi, chiamo da Palermo e volevo chiedere se in questo microcredito è accessibile anche una piccola società di donne che vogliono aprire uno studio di architettura. Siamo un gruppo di architetti e vogliamo aprire questo studio, se poi con i finanziamenti possiamo anche fare formazione, cioè se possiamo investire quello che abbiamo in prestito con corsi di formazione per lo sviluppo sostenibile, microeolico, fotovoltaico. Grazie Giuseppina. Sì, assolutamente sì, il microcredito ha proprio la finalità di sviluppare l'attività, quindi se il corso di formazione fa parte della possibilità di sviluppare l'attività è assolutamente finanziabile. Non esistono dei vincoli formali, ma esiste un'indagine sulla sostanza del perché uno chiede finanziamento e dunque un corso professionalizzante è assolutamente una delle spese ammissibili. Ad oggi siamo presenti in 10 città italiane, non siamo a Palermo ma probabilmente lo saremo presto e dunque anche voi sarete delle finanziate potenziali. Fabio ci chiede, ho necessità di ripartire, in passato le banche mi hanno rovinato, posso io ex cattivo pagatore accedere al microcredito o sono marchiato a vita? Perché in effetti chi ha difficoltà ad accedere ai prestiti tradizionali non è soltanto perché non ha garanzie, ma a volte anche perché ha protestato. Sì, se sei marchiato a vita puoi venire da Permicro, se hai qualcuno, un'associazione, di nuovo una parrocchia, una comunità, una rete di riferimento che ci racconta e ci spiega che in realtà hai avuto un momento di difficoltà e sei pronto davvero a ripartire. Quindi di nuovo l'elemento portante è la rete di riferimento che ci parla di te, che ci dice che sei veramente pronto a ripartire. Quindi sì, non esistono marchiati a vita. C'è anche la domanda di Filippo da Segrate che scrive: è possibile aderire al microcredito non come beneficiario ma come prestatore, come si fa per il social lending? Dunque, noi non siamo una banca, quindi non possiamo ottenere prestiti da persone fisiche. Si può partecipare a Permicro come investitori e quindi però con delle quote importanti e quindi attraverso l'entrata nella compagine sociale. Per tutto questo ovviamente conviene mandare una mail a info@permicro.it e chiedere come fare. Non possiamo ottenere prestiti dal pubblico proprio perché siamo una società finanziaria che non può prendere prestito ma solo erogare finanziamenti. Andiamo a Roma da Marcello, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere se c'era un limite di età per questo microcredito. È una domanda, ah sì, una domanda che ci fa anche un'altra ascoltatrice, Alessandra, via SMS. No, assolutamente no, non c'è un limite d'età, perché appunto l'elemento di valutazione è la bontà del progetto e la capacità e l'attitudine che una persona ha di fare impresa e ovviamente la presenza della rete. Quindi sono questi tre gli elementi: capacità, idea e presenza di una rete, non certamente l'età. Perché anzi, magari una persona che ha 60-65 anni, che ha avuto una storia lavorativa e che si vuole partire con una piccola attività, può avere un'esperienza professionale importantissima che gli permette di veramente fare delle belle cose nell'attività, nel self-employment, insomma. Ecco, questi soldi fino a 25.000 euro, già detto, poi come vengono restituiti, a quali tassi, in quanto tempo? Allora, vengono restituiti a rate mensili, generalmente in un periodo che va dai 12 ai 60 mesi, e noi tendenzialmente cerchiamo di fare dei piani di rimborso il più corti possibili, perché diversamente da quanto diciamo viene pubblicizzato, più il finanziamento è corto più il cliente paga in fretta e quindi paga meno interesse. Quindi noi cerchiamo di dare al cliente il maggior vantaggio. Certamente mediamente vengono istituiti in 3, 4, 5 anni. Il tasso è molto diverso rispetto alla finalità per cui si chiede il finanziamento. Generalmente il tasso di interesse è tra l'8 e il 12%. Tra poco sentiamo anche Rino da Milano. Il numero per raggiungerci, lo ricordo ancora una volta, 800 24 00 24. Ma io nel frattempo ringrazio Angela, che è un'artigiana, una signora rumena che abita e lavora a Torino, per essere in linea con noi. Ben trovata, Angela. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Lei ha usufruito del microcredito per avviare la sua attività? Sì, ovvio. Io, grazie al finanziamento del microcredito, abbiamo aperto un negozio di riparazione scarpe, valigie e borse. Facciamo le scarpe su misura e ci occupiamo di vendita di prodotti per le scarpe e per la cura del piede. Come sta andando l'attività? Guardi, veramente per i tempi che corrono abbastanza bene. Non vi potete lamentare, anche perché si dice sempre che c'è bisogno di artigiani in Italia, che ormai non ce ne sono più, per cui buttarsi in questo ambito può essere, insomma, può dare i suoi frutti. Angela, quanto ha ottenuto lei col microcredito? Allora, noi con il microcredito abbiamo ottenuto 10.000 euro. E cosa le sono servite? Come le avete utilizzati questi 10.000 euro? Allora, noi questi 10.000 euro li abbiamo utilizzati per... abbiamo affittato un negozio, abbiamo affittato il locale, abbiamo comprato i macchinari che ci servono per lavorare, e abbiamo comprato vari arredamenti che servivano per il negozio. Va bene, avevate provato prima con le banche, insomma, con altri per altre vie? Sì, infatti, prima di fare questo finanziamento con microcredito, noi abbiamo cercato, che ne so, in varie banche, da Unicredit, che siccome abbiamo un conto corrente aperto da tanto tempo, che l'abbiamo utilizzato, abbiamo provato anche lì, però sta... Ci dicevano sempre, signora, la sua fortuna è che anche stasera purtroppo tanti nostri compaesani hanno combinato anche tante cose, quindi cioè, noi siamo stati rifiutati. E allora un nostro caro amico che è presidente di un'associazione italo-rumena ci ha fatti conoscere, ci ha consigliati il microcredito di Permicro. Sì, l'associazione Flacara, che è la rete di riferimento nella fattispecie. Ah, ok, perfetto. Va bene, Angela, io la ringrazio, in bocca al lupo, grazie per questa sua testimonianza. Poi sentiremo anche Micaela, ma vorrei rispondere a qualche domanda. No, prima ce n'è una un po' polemica, cioè un ascoltatore un po' scettico. Adesso vado a trovare questo messaggio. Non dite stupidate, vabbè, parafraso. Microcredito con maxi firme di garanzia in solido dei genitori, cane e gatto compresi. Cioè lui dice anche per il microcredito alla fine occorrono delle garanzie come per le banche. Ma noi la garanzia certamente la prendiamo ed è una garanzia morale, innanzitutto di una rete. Per esempio Angela l'ha presa attraverso l'associazione Flacara, che è un'associazione di rumeni, e poi semmai anche coinvolgendo il cane, il gatto, il parente, lo zio, il cugino. ma tutti questi tendenzialmente non hanno proprio niente in solido. È proprio questa la ragione per cui vengono da noi. Se il genitore in solido e quindi ha una casa, ha delle proprietà, può mettere una firma, la banca certamente darà il finanziamento. Nel nostro caso invece, se prendiamo delle firme di soggetti vicini al cliente, lo facciamo proprio per creare questa rete di conoscenza e di aiuto intorno alla persona. Quindi non garanzie, se vogliamo, come vengono dette, in solido, quindi con capienti, con dentro dei beni, ma delle firme di persone che ci credono, che credono nella persona e che dunque si mettono in gioco insieme. Ecco, Franco da Cantù dice: per chi non ha garanzie ma ha una casa da ipotecare, c'è possibilità? Beh, non è che mandiamo via i buoni clienti, certamente tendenzialmente questi vanno in banca. Esatto. No, prego, prego. Però non lo mandiamo via, certamente se viene e dice io voglio anche mettere la mia casa diciamo a garanzia, va bene, ma non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è servire chi dalla banca non riesce a avere il finanziamento. 349-238-6666 è il numero per gli sms, il numero per le telefonate è 800-24-0024. L'ha composto Rino da Milano, buongiorno. Sì, buondì. Senta, io, una parte è stata, diciamo, sono state date delle risposte alle domande che dovevo fare. Una domanda che mi preme a farlo, a chi rivolgersi, uno. E poi, se il soggetto mette delle conoscenze, diciamo, come avallo, come fiducia, no? Che rischia il soggetto che mette la sua firma, ecco? Dunque, chi mette la firma da un punto di vista finanziario economico non rischia nulla, rischia di fare una brutta figura se effettivamente non conosce come scrive, come firma da un tot di tempo questa persona, questo richiedente, e se non lo seguirà nel corso del finanziamento. Però da un punto di vista economico finanziario non rischia nulla, perché la garanzia è morale. Per chiamarci, per prendere un appuntamento, si utilizza il sito che è www.permicro.it o la mail info@permicro.it, o nel caso voler chiamare 800 135 953 da rete fissa. Ecco, non sarete l'unica società finanziaria specializzata nel microcredito ormai in Italia? No, siamo l'unica. Siete l'unica? Ad oggi siamo gli unici e questa in realtà speriamo di essere presto in ottima compagnia, perché di microcredito ce n'è bisogno moltissimo. Ci sono moltissimi progetti di microcredito in Italia, più di 100, in cui sono coinvolte in qualche modo le fondazioni bancarie, le banche eccetera eccetera, ma Permicro è la prima società italiana specializzata nel microcredito. Come è nata? È nata nel 2007 grazie ai soci fondatori, che sono la Fondazione Paideia e Oltre Venture, che è un fondo di investimento sociale che ha sede a Milano, e grazie a questi due soci fondatori è nata questa società con lo scopo appunto di aiutare chi è escluso dal sistema bancario. Negli ultimi 2 mesi abbiamo avuto anche un riconoscimento importante, perché il Fondo Europeo degli Investimenti del gruppo della Banca Europea degli Investimenti è diventato anch'esso socio, e adesso è socio di Permicro per il 20%. Quindi anche la Commissione europea e l'Europa in questo percorso di aiuto ai soggetti esclusi ci sta appoggiando, ci sta seguendo. 349-238-6666, 800-24-0024 i numeri per raggiungerci. Ci fermiamo, sentiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo insieme. Bentornati a Salva Danaio, abbiamo in linea Micaela. Micaela, buongiorno. Buongiorno, grazie di tutto. No, grazie a lei per essere qui a darci la sua testimonianza. Micaela Barrascivanu, ho letto bene? Sì. Di dov'è? Sono rumena. Ma adesso in realtà lei non soltanto vive ma lavora a Brescia. Sì, a Brescia, una stazione di Breno a Mezzaro. Alzi un po' la voce, non la sentiamo benissimo, Micaela. Si sente? Non benissimo, lei alzi un po' la voce. Ha un bar a Brescia. Ci vuole raccontare come è riuscita ad avviare questa attività? Sono arrivata quasi 3 anni e mezzo, ho cominciato a fare un po' dei lavori, delle pulizie, ho conosciuto il mio compagno e poi assieme abbiamo deciso di aprire un barettino. qua dove abitiamo, e l'unico bar che l'abbiamo aperto, e siamo contenti, la gente è gentile, e è un punto di ritrovamento un po' per tutti, bambini, anziani, giovani. E cosa vi serviva per aprire questo bar? Quanto ci servivano ancora un po' di soldini per finire a pagare i lavori alle persone che hanno fatto dei lavori. Quindi mancava ancora un piccolo margine. Sì, pure così. Che avete ottenuto grazie al microcredito. Quali sono state le vostre garanzie? La fiducia da per micro al signor Carlo, che ci ha accordato proprio la sua fiducia, e a tutti coloro che hanno dato il loro voto. Ma chi ha garantito per voi? La banca, pure proprio la banca ci ha accordato la loro fiducia. Prego, parla. No, noi abbiamo il nostro ospite che ogni tanto parla sottovoce. Prego, siamo alla radio. No, nel caso magari ce l'ho un po' di emozioni. Nel caso sono un po' bloccata. Nel suo caso, lei parla di banca, noi non siamo una banca, appunto, siamo una società di microcredito. In realtà non è esistito un'associazione che ha firmato una garanzia morale, ma la situazione di paese, cioè Breno, Brescia, e quindi la conoscenza diffusa del soggetto ci ha permesso di erogare comunque il finanziamento. Ecco, quindi non serve per forza appunto un'associazione, perché un ascoltatore, appunto Alessandro, diceva: cosa faccio se non conosco parrocchie? No? Beh, intanto magari può conoscere un circolo Arci, può conoscere un gruppo sportivo, può conoscere altre realtà. Certamente la conoscenza del territorio, cioè che il territorio conosca la persona attraverso una rete costituita, quindi una parrocchia, un circolo Arci, oppure attraverso una conoscenza diffusa del paese, è fondamentale, è un elemento fondamentale la garanzia morale. Tra poco risentiamo la nostra ospite in questo caso, ma vorrei leggere qualche domanda che arriva via SMS. Un ascoltatore dice: se dovessi comprare un furgone per andare al lavoro, posso accedere al microcredito anche se sono un lavoratore dipendente? Certamente sì, il mezzo per andare a lavorare è uno dei finanziamenti, delle finalità per cui noi diamo un finanziamento, perché l'opportunità di andare a lavorare, e quindi di proseguire ad avere un reddito. Quindi certamente sì, può essere un furgoncino, può essere anche un'automobile di seconda mano, per esempio. Quindi una persona non deve dimostrare di essere in una situazione di bisogno, di non avere lavoro, un lavoro precario, anche un lavoratore dipendente con uno stipendio regolare può accedere al microcredito? Certamente, l'importante è che dimostri la finalità per cui richiede il microcredito, che appunto deve essere quella della casa, della salute, della formazione o del lavoro. Quindi ci deve essere una finalità che vada al di là del mero consumo. Noemi Gonzalez ci ha scritto: include l'avviamento di attività online questa possibilità? Ma sì, mi viene in mente, non so se fa riferimento per esempio alla vendita di prodotti online oppure ad altre attività che si gestiscono sul web. Certamente sì, alla stessa maniera viene valutato il progetto, la bontà del progetto e se c'è mercato quindi di quell'attività. Quindi attraverso una valutazione benissimo può essere finanziato qualcuno che voglia fare un'attività online. Quindi decidete voi se l'attività, insomma, è il caso di aprirla o no? Assolutamente sì, ci facciamo convincere dall'imprenditore del fatto che questa attività possa avere mercato. Quindi se il progetto non vi convince, niente microcredito? Assolutamente no, ma generalmente gli imprenditori che vengono da noi ci convincono. Devo pur dire che ve ne sono tanti che magari non hanno le idee chiare, non hanno le competenze, non hanno le attitudini, e a questi diciamo di no. Ma il microcredito è un'opportunità per chi ha le capacità e per chi ha le condizioni per aprire un'attività. Diversamente creeremo solo degli ulteriori problemi, daremo un credito a qualcuno che poi non sa ben utilizzarlo e dunque si trova con un debito che non può pagare. Nicola da Perugia, buongiorno. Salve, buongiorno. No, io avrei una domanda, non tanto per me, ma diciamo per i miei clienti. Io ho una società che fa contract, dunque arredamento per negozi, e offriamo anche un servizio leasing, ma non tutti riescono ad accedere, diciamo, a questo prodotto. Volevo sapere se è possibile noi come azienda proporre questo microcredito. Sì, certamente bisogna sentirsi prima e bisogna capire quali sono le finalità e le tipologie dei richiedenti, in modo da poter poi offrire veramente un servizio e non creare, diciamo, delle false illusioni. Certamente sì, noi interveniamo proprio laddove ci siano appunto delle capacità, delle attitudini, ma per qualche ragione non si possa accedere al normale sistema bancario e quindi per esempio ad un leasing. Siamo in chiusura, dobbiamo essere veloci, alcuni ascoltatori sono rimasti impressionati dai tassi. E allora, siccome Marco da Massa dice: tanto so che non leggete il mio messaggio, me lo voglio dire lo stesso. Usurai, vergogna, 8-12% quando i tassi sono all'1%. Spieghiamo questa cosa. Ma sì, certo, e i tassi al tasso di sconto adesso è circa intorno al 2% e il mutuo si prende al 5% o anche meno. È chiaro che questo finanziamento è un finanziamento con un piccolissimo ammontare e quindi la differenza di qualche punto percentuale significa 3, 4, 5, 6 euro a rata nel corso del finanziamento. Sono certamente soldi, ma la differenza del microcredito non la fa il tasso di interesse, ma il poter accedere a un finanziamento che diversamente la persona non potrebbe avere, e l'accompagnamento e il monitoraggio che viene fatto a favore del richiedente. E se l'attività è già aperta da un anno, ad esempio, chiede Alessandra? Va bene, soprattutto se per esempio bisogna acquistare un banco frigo in più, piuttosto che un arredamento in più, cioè laddove ci sia un principio di sviluppo dell'attività. Micaela, una domanda difficile per lei in chiusura, un consiglio l'8 marzo per le donne all'ascolto, magari straniere come lei, che hanno voglia di avviare un'attività, perché no, un bar, come ha fatto lei? È difficile, eh? Sì, perché il locale è del mio compagno. Con soldi che ci mancavano proprio ci ha aiutato per micro. Va bene, il consiglio è il micro. Grazie mille a Micaela, siamo davvero fuori tempo massimo, per cui io saluto il nostro ospite Andrea Limone, amministratore delegato di Permicro. Vogliamo ricordare il sito? Sì, www.permicro.it. Va bene, grazie ancora. Grazie a voi. E prima di salutarci, anche oggi, come di consueto, ci fermiamo qualche istante prima per lasciare spazio alla nostra rubrica. IMSS, per saperne di più. Eccoci allo spazio in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in cui vi proponiamo delle pillole per chiarire le parole della Previdenza. Oggi in primo piano il modello CUD. Il modello CUD è il documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi che l'INPS spedisce ogni anno ai pensionati entro il 28 febbraio. Questo documento contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall'INPS nell'anno precedente. Nel modello non sono segnalate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano. In caso di pensione di reversibilità pagata a più titolari, il modello è spedito a ciascuno di loro, con le sole quote ad ognuno riferite. Il pensionato che non riceve il modello CUD al proprio domicilio può rivolgersi direttamente all'INPS per ottenerne il duplicato. Per presentare la dichiarazione annuale del modello 730, i pensionati possono rivolgersi presso gli uffici INPS più vicini. Ed è davvero tutto. Io voglio ringraziare Gaia Romani, che ogni giorno lavora con passione dietro le quinte di Salvadanaio, e grazie anche a Fabio Cantadori, che ha curato la regia. Salvadanaio torna domani. Un buon 8 marzo da Roberta Pellegatta.